Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di donne, parliamo di due libri che parlano di donne, del lavoro femminile, della presenza delle donne all'interno delle imprese. I due libri sono Fatti più in là di Monica D'Ascenzo. Buonasera Monica D'Ascenzo. Buonasera agli ascoltatori. E Progetto Donne e Futuro a cura di Cristina Rossello. Buonasera Avvocato Rossello. Buonasera, Monica... buonasera a lei e agli ascoltatori. Monica D'Ascenzo, giornalista del Sole 24 Ore, ha scritto questo libro, Fatti più in là, Donne al vertice delle aziende, le quote rosa nei consigli di amministrazione. Un tema particolarmente attuale, D'Ascenzo. Esatto, perché proprio ieri è iniziata la discussione in Senato, in Aula. Il disegno di legge in Italia è già stato approvato dalla Camera, ora sta passando al Senato e settimana prossima potrebbe essere la settimana decisiva per un'eventuale approvazione, quindi per un vero e proprio tsunami nelle imprese italiane quotate e partecipate statali. Che cosa dice questo progetto? Che cosa avverrà allora? Il progetto di legge Golfo Mosca prevede che sia riservato un terzo dei posti nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali al genere meno rappresentato, che in Italia è quello delle donne, perché le donne nei consigli di amministrazione nelle società quotate sono solo il 6,8% al momento. Questo vale dal rinnovo successivo del Consiglio d'amministrazione, quindi diciamo già a partire dal prossimo anno, dalle prossime assemblee di rinnovo dei consigli di amministrazione, potrebbero entrare donne nei CDA. Perché saranno tsunami? Perché comunque è una rivoluzione importante. Adesso la quota è, come dicevamo, del 6,8% e nei prossimi 3 anni potrebbero dover entrare nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali 1.000 donne, e questo sarebbe davvero un cambiamento importante. E un'ultima domanda prima di sentire l'avvocato Rossello: sono preparate le donne a entrare nei consigli di amministrazione? Ci sono molte più donne preparate di quanto non si pensi. Il problema delle donne è che difficilmente si mostrano, si fanno vedere, rilasciano interviste, partecipano a convegni, forse dovrebbero diventare più brave nel promuovere se stesse. Ecco, allora rivolgo la stessa domanda all'avvocato Cristina Rossello, che appunto ha curato il libro Progetto Donne e Futuro. Sono preparate le donne a entrare con maggiore responsabilità nel mondo delle imprese? Sono sicuramente preparate e sono anche determinate, direi. Allo stato attuale, lei pensi che la rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione delle società quotate non supera il 7%. Quindi non supera il 7%, ma questo come mai? Quali sono le ragioni di fondo? Ma le ragioni di fondo sono anche dovute al fatto che non c'è un ricambio generazionale, sia a livello di fascia di età, quindi, e poi per il fatto che le donne hanno questo famoso soffitto di cristallo, che è un mito creato dalla letteratura americana, ma che esiste, che impedisce loro di ambire a delle situazioni di potere. Piano piano si stanno definendo delle nuove strategie e sicuramente questo progetto di legge è un progetto che si è mosso in tutta Europa e che comincia a dare i suoi frutti anche in Italia. Ecco, nel libro si parla di sviluppare il talento femminile come condizione essenziale per far fronte alle sfide del XXI secolo. Che cosa possono dare in più le donne, avvocato Rossello? Ma sicuramente è una forma di sviluppo della cosiddetta womenomics, cioè un'economia femminile che partecipa ed è viva, ed è una forma di partecipazione all'economia oltre che partecipazione democratica. Le donne possono dare molto, perché se pensiamo che la maggior parte dei consumi è in mano loro, un apporto anche a livello di governance dà un contenuto anche nella scelta di mercato di un prodotto, no? Come certamente, prima cosa. Cioè le donne sono più responsabili, partecipano attivamente alla vita sociale e quindi possono avere una sensibilità maggiore verso i problemi reali della società? Sicuramente sì, è uno dei temi che è venuto fuori in questo libro che riguarda questo progetto Donne Futuro, che prevedeva appunto una giornata di convegno sul tema della womenomics e parlava proprio della possibilità di inserimento femminile, di contributo femminile nell'economia. Sicuramente è venuto fuori che in una relazione addirittura ci fossero delle caratteristiche di carattere emotivo anche del profilo femminile. Si parla a questo riguardo di una forma di bilinguismo di genere, cioè di un superamento delle famose Tiger Lake degli anni 80, che avevano le caratteristiche meramente femminili, per un'assunzione di ruoli. nuovi con un concetto più consono alle nostre caratteristiche. Ecco, il libro di Monica D'Ascenzo, ricordo, giornalista del Sole 24 Ore, peraltro questi, entrambi questi libri sono editi dal Sole 24 Ore, si ha per titolo Fatti più in là, è un po' una rivendicazione femminista contro il potere maschilista. Diciamo che il titolo voleva essere semplicemente ironico, infatti gli studi che vengono citati nel libro dimostrano come un consiglio di amministrazione che vuole ottenere risultati migliori funziona se è un mix delle competenze, diciamo, maschili e femminili. Un consiglio di amministrazione tutto al femminile sarebbe tanto poco efficiente quanto uno tutto al maschile. Ecco, non voleva essere una rivendicazione. Ecco, quindi anche gli uomini hanno qualche valore, hanno qualche vantaggio, hanno qualche pregio. Cioè, è proprio nella differenza tra i due generi che possiamo trovare un valore complessivo. Certo, è proprio nel riconoscere la diversità e riuscire a comporla anche nei consigli di amministrazione che si ottengono i risultati migliori. E questo vuol dire avere la bottom line dei bilanci, quindi l'utile, più alto, e in questo momento di crisi è particolarmente importante. Quindi una sana competizione in pratica. Sì, dovremmo arrivare, perché poi la legge di cui abbiamo parlato prevede un obbligo transitorio, cioè vale per 3 mandati, quindi vuol dire un cambiamento culturale in 3 mandati che poi lascerà spazio alla meritocrazia. Io volevo citare una frase detta da Anna Maria Tarantola, che è il numero 2 di Banca d'Italia, che mi sembra molto importante, che dice che con le quote rosa non stiamo facendo un favore alle donne, ma stiamo facendo un favore al paese, perché il paese non si può permettere, soprattutto in questo momento, che il 50% dei talenti resti inutilizzato. Indubbiamente il 50% dei talenti, per fortuna siamo divisi un po' a metà tra uomini e donne, bisogna utilizzare anche questi talenti. Cosa può fare appunto allora la società civile, al di là della legge, avvocato Rossello, per aiutare questo sviluppo delle potenzialità, delle risorse, dei talenti? Per esempio l'università, si fa abbastanza? Ma sicuramente l'università può fare di più. In questo convegno che abbiamo organizzato dedicato al progetto Donne Futuro ci sono negli atti proprio 2 interventi importanti di 2 professoresse, una della Sapienza e una della Bocconi, che hanno dedicato molto delle loro attenzioni, sia una per i mercati finanziari, l'altra per le aziende familiari e le strategie aziendali, proprio all'apporto femminile. In quest'ottica anche lo stesso progetto Donne Futuro cerca di creare anche una generazione tutorando la formazione femminile con assegnazioni di borse di studio e un programma sperimentale di tutoraggio, dove ci sarà una madrina che accompagnerà la prescelta nell'esordio nel mondo professionale dell'impresa, basato sulle eccellenze locali. Mi sembra che tutti e due gli argomenti trattati dalla dottoressa D'Ascenzo poi tra l'altro siano ricompresi anche in questo intento pratico di questo progetto. Quindi non è una rivendicazione, o non è solo una rivendicazione, Monica D'Ascenzo. Io credo che anche l'avvocato sia d'accordo quando si dice che forse la cosa migliore è andare insieme verso un obiettivo, che si sia uomini o donne, ecco, nessuno vuole scavalcare l'altro. Ecco, l'esperienza degli altri paesi, per esempio si dice nel libro, in Svezia e Spagna sono già legge, in Francia e in Germania sono un'ipotesi di lavoro, che cosa ci può dire? I risultati sono stati raggiunti, ricordiamo la prima è stata la Norvegia nel 2006, ha raggiunto il 40% nel giro di 2 anni di presenza femminile nei consigli di amministrazione, poi nel 2007 è stata la volta della legge in Spagna e nel gennaio scorso, il 13 gennaio, è passata la legge sul 40% anche in Francia, quindi diciamo stiamo seguendo un'evoluzione europea che viene caldeggiata anche dalla Commissione europea, quindi ci inseriamo in un contesto che sta andando in quella direzione. Quindi ecco, avvocato Rossello, stiamo andando verso la conclusione, ci sono sì dei problemi e delle potenzialità attraverso le leggi. Dal punto di vista pratico, quali sono gli ostacoli maggiori che ci sono per una donna in carriera? Ma ci sono sicuramente degli ostacoli mentali, nel senso che c'è ancora una generazione che trova difficoltà a inserirsi, e quella ad esempio della governance è un tema proprio che la D'Ascenzo ha fatto bene a evidenziare in questo momento, perché sono i ruoli di vertice che mancano, e allora se riusciamo a sconfiggere anche questa resistenza potremo dimostrare appieno la forza del nostro apporto. Un'altra realtà è quella territoriale, lavorando su questo concetto che poi ereditiamo usandolo ormai per termini pratici di Women Homeless territoriale, muovendo dalle realtà locali, possiamo costituire proprio un ingranaggio efficace nel motore dello sviluppo del paese. Quindi, Monica D'Ascenzo, possiamo essere ottimisti dal punto di vista femminile, ma anche dal punto di vista maschile, nel senso che riusciamo a far crescere insieme questa nostra società? Io sono molto ottimista, anche perché le donne stanno dimostrando di riuscire bene negli studi. Prima si parlava dell'università, oltre il 60% delle laureate in Italia è donna, e oltre il 60% di coloro che passano esami importanti come il concorso dell'avvocatura, della magistratura, sono donne. Io credo che si stiano facendo spazio e che questo lo stiano capendo anche gli uomini. Grazie, ringraziamo allora Monica D'Ascenzo e l'avvocato Cristina Rossello per essere stati con noi, per averci illustrato i loro due libri. Ve li ricordo: Fatti più in là, di Monica D'Ascenzo, Donne al vertice dell'azienda, Le quote rosa nei consigli di amministrazione, e a cura di Cristina Rossello, Progetto Donne e Futuro, gli atti del convegno dedicato appunto a questo progetto. Sono due libri editi dal Sole 24 Ore, il primo ha 170 pagine e costa 18 euro, il secondo 110 pagine e 16 euro. Grazie a Monica D'Ascenzo e a Cristina Rossello, grazie a Filippo Reggi in regia, Anita Panizzi in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona domenica.